Buonasera, benvenuti. Grazie per essere qui con questi 36 gradi percepiti come 40. Ringrazio G&G, Giovanni e Giovanni e la regia per mandarci live su Radio Live. E vi do il benvenuto. Stasera presentiamo con enorme gioia la rivista 20 Seconds Magazine, il numero 9. E, visto che fa molto caldo, non mi dilungherò troppo, ma i vari ringraziamenti li spacchetteremo nel corso di questa talk. Quindi faccio il mio più caloroso benvenuto a Daniel Melfi, che ormai voi conoscete quasi tutti in profili diversi. Oggi è qui come editor e fondatore della rivista, ma l'abbiamo visto già in altre vesti, quindi ti passo subito la parola, così magari entriamo subito nel vivo. Grazie Rosa, grazie ad Ivano, Andrea, Giovanni e Giovanni, a tutti voi che siate venuti qua stasera. Siamo qui per presentare questo nuovo numero di 20 Seconds che è appena uscito. Come diceva Rosa, io sono Daniel Melfi, l'editor e fondatore di 20 Seconds. Il primo numero di 20 Seconds è uscito nel gennaio 2020. 20 Seconds... C'è una luce. Grazie. Occhio di bue. Mi sento che ho già visto questa scena in un film da qualche parte. Comunque, 20 Seconds è una rivista per l'arte e la musica sperimentale, ma più di tutto è una rivista che si basa, che cerca di esplorare la filosofia dell'esperimentazione in sé. Cioè cerchiamo di evitare le classiche definizioni di un medium o un altro attraverso il medium di una rivista cartacea. Significa che pubblichiamo interviste, poesie, long form journalism, altri tipi di articoli, materiali d'archivio, fotografie e tante manifestazioni diverse delle arti, perché crediamo che queste arti vengono vissute in un modo molto, sì, multidisciplinario, però anche un'esperienza molto, come dire, viva. Cioè, noi crediamo nel fatto che tutti noi che siamo qui ci interessano varie arti, non è che ci interessa soltanto una cosa sola. E questa rivista è nata un po' dalla frustrazione di leggere, di incontrare riviste e pubblicazioni che erano o disegnate, pubblicate per un pubblico che forse l'editor pensava che si interessava soltanto una cosa. E più di tutto, forse la cosa più importante, è l'intenzione di questa rivista è di lanciare un po' idea, di essere un po' un launchpad per nuove domande. Non cerca mai di dare risposte. Noi ci fediamo nell'idea del lettore e le sue capacità, le sue interessi di scoprire sempre di più e di prendere il suo proprio percorso dopo aver letto un numero della rivista. Sì, secondo me questa è una cosa molto visibile ed è anche la cosa che mi ha colpito la prima volta che ho visto questa rivista, cioè il percepire o comunque il restituire l'arte come un sistema aperto, come dicevi tu, al di fuori di queste distinzioni non solo multidisciplinari ma anche diacroniche, perché comunque nei vari numeri ci sono sempre anche dei rimandi a artisti che o non ci sono più o comunque c'è una visione storica che tende o a riattualizzare o a rileggere qualcosa, e questo sicuramente è un aspetto che rende questa rivista speciale. Ed essendo una rivista comunque complessa, che richiede un tempo di lettura, una domanda forse molto banale, ma come mai 20 Seconds? 20 Seconds, il titolo viene un po', è un po' una cosa ironica, un commento su questo mondo che un po' descrivevo prima. L'idea che tante cose che leggo, che leggiamo, mi pare che sono state pubblicate, concepite per essere digerite e poi, non so la parola elegante in italiano, ma vengono ridate al mondo in molto fisiologico l'evacuare in 20 secondi o meno. E quindi l'idea di questa rivista era di pubblicare, creare un po' un mondo, un universo che richiede tanto tanto più tempo. Ora siamo a Napoli, costa molto e prende anche tanto tempo, e non è che arrivano sempre le riviste quando devono arrivare, però siamo contenti che abbiamo queste riviste oggi. Però di solito volevo dire che abbiamo tutti i numeri, perché la rivista è anche concepita come una cosa che ha una vita, che dura, non è che dopo un mese che esce un numero non ha un rilevanza. Quindi quello che dicevi tu, Rosa, mi fa molto piacere, perché io ad esempio ho letto il primo numero ultimamente e mi sorprendeva quanto aveva ancora una rilevanza importante, nonostante il fatto che era pubblicata 5 anni fa. Qual era il tema del primo numero? L'indipendenza. Quindi sì, evitiamo il discorso sulla precarietà di un artista indipendente oggi, perché sennò... Sì, anche sull'indipendenza di alcuni stati. Anche. Quindi mi avvicino, a proposito di temi, al tema di questa rivista, cioè di questo numero, l'archivio. Una rivista, proprio un numero di una rivista, è già in sé un piccolo archivio. Quindi mi sembra quasi che questo numero abbia sia un metanumero, un numero quasi che... Benvenuti. Non so se in radio Buonasera. Sentono i cigolii delle porte. Ivano, suggerisco un po' di olio domani. Dicevo, una rivista che tematizza la questione dell'archivio mi sembra una rivista che tematizzi l'idea di essere una rivista, in un certo senso. Quindi mi sono chiesta innanzitutto come sei arrivato a questo tema e anche poi come l'hai gestita, perché un archivio tendenzialmente accoglie materiali di diversa natura, accoglie una collettività in termini di supporti di autori, autrici, autor, però ha un editor. Quindi innanzitutto tu come hai vissuto il rapportarsi a questo tema nel chiudere questo numero? E da dove ti è venuto questo tema dell'archivio? Ok, ci sono tante domande. Lo so, scusa. Interessanti in questa domanda. Forse la prima cosa è sì, è un po', come dici, un metanumero, però va anche detto che tutti i numeri sono un po' metanumeri, tipo altri temi erano il medium, tempo, la memoria, l'indipendenza... le radici della nostra modernità, quindi posso andare avanti. Forse il processo è già un'indagine esistenziale, anche fare una rivista del genere. La realtà è che questo tema mi interessa perché sono anche, oltre ad essere giornalista, sono anche un ricercatore negli archivi. E quindi, come tante altre cose in questa rivista, viene da una base della frustrazione e la rabbia. Gli archivi sono il luogo perfetto per sedimentare. Esatto, perché archivi sono posti, luoghi assolutamente politici. Ogni cosa che viene archiviata sì. è un'azione politica. E quindi quando lavori nei luoghi politici, questa cosa devi affrontare ogni giorno. Perché questa cosa era archiviata, questa no, in questo modo? Cosa significa? Poi l'altra realtà è che sì, io sono canadese, noi siamo a Berlino con questa rivista, anche il processo di archiviare. Ma anche perché è una crasi tra archivio e rivista, secondo me stai facendo questo. Quindi anche il processo di archiviare è già una cosa legata al mondo occidentale. Quindi cerchiamo di aprire la nostra rivista, il nostro mondo, ai altri popoli, altri modi di pensiero, però in realtà dobbiamo sempre guardare dentro di noi cosa rappresenta per noi e come cerchiamo di fare questo equilibrio. Perché dobbiamo anche capire che non possiamo forzare una cosa su un altro popolo che non ha mai pensato in questo modo. E infatti Anna Rosa Ibanez, nel suo lavoro in questo numero, con l'archivio di Isabel Aretz, un'etnomusicologa in Cile che stava lavorando con il popolo Mapuche. Lei si interroga questo concetto della rilevanza e dei narrativi, settler colonial narratives, che si impone anche pensando in questo modo. Poi cerco, non so se mi è mancata qualcosa nella tua domanda. No, secondo me no. Ma poi anche se l'è mancata, non okay. L'archivieremo. Però questa è la base di questo numero degli mm-hmm. archivi. Secondo me questa diversità e varietà di materiali è ben visibile già dall'indice. E la cosa che mi ha colpito sfogliandolo è che soprattutto tra, vabbè, ora sarà un po' egotica, ma mi riferirò anche al nostro contributo. Però tra il nostro contributo, quello di Pwani Tapes, e quello, l'archivio di John Giorno, c'è un filo in comune che è quello della radio. E la radio è un luogo deputato a una collettività che si esprime e parla a qualcun altro e lo fa principalmente tramite la propria voce. Mi chiedo, e quindi ti chiedo, se secondo te è possibile vedere la rivista e la radio come dei luoghi interconnessi che però funzionano su supporti differenti. Quindi la rivista lavora sulla scrittura, mentre la radio lavora sulla voce, sull'ascolto. Trovo questa domanda molto interessante. Non so se potrei veramente rispondere in un modo netto. Però ma io non lo volevo in modo netto, non ti preoccupare. Però entrambi sono medium che utilizzano varie voci, qualche volta no. A volte vengono usati come sì, luoghi della collettività, no? Però in altri casi no. Cioè vengono anche sfruttati per comunicare un senso di propaganda. Come gli archivi, peraltro. Esatto. L'idea che trovo molto interessante è che tu hai notato anche prima di me un dialogo tra i pezzi nella rivista, che per me è la cosa più bella che esiste in questa rivista. Cioè noi cerchiamo di come dire, curare e pubblicare questa selezione di materiale basata su questa percezione, ad esempio, sull'idea dell'archivio. E non aspettiamo mai che verranno in dialogo questi vari pezzi, uno della Kenya, uno del New York negli anni 70, uno di Napoli e Berlino della contemporaneità. Però alla fine sono veramente in dialogo, in un modo molto inaspettato. E questa è la cosa che trovo molto interessante, perché poi vengono fuori quest'idea che non potevo mai immaginare. Forse per questo direi che hanno c'è una cosa molto simile, anche ad esempio quando ascoltiamo la radio, tipo ascoltare la radio per una giornata intera, e ci sono varie puntate, stiamo parlando ovviamente di delle radio interessanti. Di Radio 3 in Italia. Ma anche tipo come Radio Kashmir, Radio ATK, posti con cui avete collaborato, l'idea che tu ascolti ad esempio alle 10 di mattina, forse un talk show, qualcosa, un mix, e poi alle 6 stai ancora lavorando a casa, ascolti ancora, e poi viene fuori un'idea che non aveva niente a che fare con l'altro show, però crea questo dialogo nella tua testa e non so, ti fa capire una cosa che ovviamente era fuori della loro intenzione. Eh sì, infatti a me piace molto la radio. Ma se posso fare una domanda a te. Siamo qui per questo. Perché avete scelto la radio come una cosa così fondamentale? Sto parlando di Wandering Translators, in particolare il progetto di Radio Poesia. Quindi noi abbiamo l'onore e il privilegio di pubblicare una selezione del vostro archivio in questo numero. Mm-hmm. Per la prima volta, peraltro. Per la prima volta. Siamo felicissime. mi ha fatto capire e anche chiedere tante cose, però ne parleremo di queste cose fra un minuto. Però mi chiedevo, non so se vuoi fare un'introduzione più ampia per poi rispondere a quest'idea, perché la radio è così fondamentale? Dunque, Radio Poesia nasce su invito di Maria Carmen Morese per sviluppare dei formati che, scusate, che potessero rendere la poesia tedesca, ma più in lingua tedesca, ma più in generale la poesia fruibile a un pubblico un po' più vasto di quella che è la nicchia che fruisce, legge e scrive poesia. E quindi già dall'invito, parlandone con Daniela Allocca, che è qui e che ringrazio per la presenza, è stato immediato pensare alla radio, poiché traspone chiunque in una posizione di ascolto profondo. Non c'è una dimensione visiva che distrae, anzi la distrazione si avviene all'interno dell'ascolto, è una distrazione coerente con quell'ascolto. E perché la poesia nasce per essere detta a qualcuno, per essere cantata a qualcuno, quindi non potevamo assolutamente pensare altro luogo che quello, e ancora di più ragionando sul concetto di traduzione, che è un concetto di per sé plurale, è un concetto che di per sé prevede l'interazione tra più mondi, a volte sono anche dei mondi interni alla lingua stessa, non sono necessariamente mondi di una lingua differente. E quindi è stato quasi automatico ragionare in termini radiofonici come luogo più adatto, ecco, a trasporre, non solo tra l'altro a mettere il pubblico in questa attitudine, ma a metterci anche noi in questa attitudine di parlare avendo consapevolezza che c'è qualcuno che ascolta e non parlarci addosso. Però direi che la radio è molto importante, perché questo vostro progetto di Radio Poesia va veramente oltre tanti confini. Coinvolge dialogo, musica, e noi avremo anche l'opportunità di capire un po' di questo ascoltando la mixtape compilato da Rosa per questo numero. Però veramente è un'esperienza di pluralità. E io trovo questa cosa molto interessante, perché è un po' come un dialogo che facciamo forse dentro le nostre teste mentre leggiamo una cosa. Ad esempio pensiamo forse a volte, com'è stata questa poesia nella lingua originale? Ora sto leggendo questa poesia con la mia cadenza. Com'è la cadenza del poeta stessa? Poi ovviamente forse scriviamo un messaggio a un amico o un'amica, tipo: hai letto questa poesia? Hai mai sentito di questa? È una puntata sulla radio di Radio Poesie va un po' così. Mm-hmm. C'è anche il dialogo in mezzo, in cui voi parlate tra voi stessi di come si traduce, come si potrebbe tradurre questa cosa, si può dire così, però secondo me è meglio così. Perché noi abbiamo anche provato questa cosa mentre cercavamo di tradurre qualche poesia all'inglese in questo numero, perché Radio Poesia è un progetto che lavora tra il tedesco e l'italiano, però 20 Seconds è una rivista in inglese, quindi anche certe persone in questa stanza come Pia, me stesso e Rosa abbiamo lavorato insieme su questo processo. Quindi forse ci puoi raccontare un po' di come questo progetto in questo modo si è sviluppato, cioè come è nato così? Il progetto è naturale, anzi forse un'apertura al processo creativo che come Wandering Translators, quindi Daniela Locca, Beatrice Occhini, che ora è a Berlino proprio a finire di lavorare su una traduzione nostra, e io gestiamo, cioè noi traduciamo in maniera collettiva, proprio per quello che dicevo prima, per cui per il semplice fatto che la traduzione è un atto di comunicazione, è un atto dedicato all'ascolto dell'altro. E come ha detto molto bene una volta Matteo Spanò, è una trasposizione di cosa dovrebbe essere l'ospitalità. Tu sei un buon ospite quando accogli, se fai sentire le persone a casa tua, ma non ti senti espropriato da casa tua. O ti lasci espropriare scoprendo questa cosa e accettando questa cosa come una scoperta in più, quindi rinegoziando costantemente i limiti che credevi di avere. E allo stesso tempo, se è un buon ospite, cioè quello che arriva, se non si piazza dentro casa così, distruggendoti il quotidiano. Quindi questa costante rinegoziazione tra l'accogliere una lingua, un linguaggio molto specifico, che è fatto di tante altre pluralità, perché soprattutto in poesia è impensabile che esista un soggetto, ci si riferisce sempre a qualcos'altro, e si è sempre nutriti da mille voci. Quindi ospitare questa cosa e restituirla nella propria lingua, capendo dove forzare, quindi dove operare un atto di violenza, tra virgolette, nei confronti del proprio linguaggio, e dire questa cosa non si capirà, ma non si deve capire, e scrivo una cosa che non funziona in italiano, ma deve essere così. E capire quando invece quella cosa l'hai persa, quindi elaborare la perdita e dire ok, questa cosa non la terrò e ho fallito, ma io devo chiuderla, cioè noi dobbiamo chiuderla questa poesia, e quindi bilanciare costantemente i limiti dei due linguaggi all'interno di non solo una persona, di tre persone. Questa è una cosa in realtà ottima, perché consente di vedere molto di più di quanto una persona può vedere. È il modo in cui noi lavoriamo, quindi non potevamo far altro che aprire questo processo, anche e soprattutto in virtù del fatto che l'editoria italiana è al collasso, la poesia si legge molto poco, si traduce pochissimo, e quindi per noi è anche importante farci carico anche di creare una rete. Questo contributo mi ha dato tanti problemi, perché è questa è una cosa molto bella. Meno significa male. Che è il primo che lo dice. Che è un sì, mi ha lanciato, proposto tante idee e tanti nuovi concetti, ma in sé è anche un po' un paradosso per me, perché ho già detto che 20 Seconds è una rivista senza risposte. Dall'altro lato lavoro nell'ambito degli archivi e sono giornalista, quindi cerco anche di parlare in un modo netto, chiaro, diretto. Quindi io vorrei capire come, se mai, o politicamente, come, cosa pensi dell'idea di bilanciare un po' quest'idea della traduzione, che a volte non funziona come A fino a B. C'è un percorso che forse non arriverà mai dove intendeva. Quindi vorrei sapere cosa ne pensi della rilevanza politica della traduzione. Perché sì, è una cosa che io trovo e trovavo molto interessante e rilevante per 20 Seconds. Anzitutto, la traduzione, qui davvero parlo al plurale, cioè non, come dire, mi assumo, quindi Daniela, se dico cose, fammi un segnaccio, intervieni. È una forma d'arte ed è spesso vista come un servizio che si presta. Quindi noi tante di queste domande non le facciamo a un pittore, non le fa una pittrice, un pittore, pittori multipli, non le facciamo a uno scrittore, perché vediamo quella cosa come una forma d'arte. Questa sono io. E questo è un grande problema politico, per l'appunto, poiché coltiva l'idea di genio romantico, mentre il traduttore si presta, o la traduttrice, i traduttori si prestano al servizio del genio e lo trasportano. Quasi ein Handwerker. Esatto, ed è anche così, cioè c'è molto lavoro manuale e artigianale dietro una traduzione, ma c'è una componente artistica, etica e politica. Riguardo la componente politica è legata al fatto che lavoriamo con il linguaggio e il linguaggio è politica, quindi ritradurre Shakespeare, ad esempio, come ha fatto Carmen, è un'operazione politica. Carmen Gallo, scusate ragazzi in radio, altrimenti mi perdete, è un'operazione politica che offre una rilettura di una determinata traduzione, e questo è il grande problema dell'editoria italiana, che noi continuiamo a leggere romanzi tradotti negli anni 60, poesie tradotte negli anni 60, che quindi non attualizzano il linguaggio, quindi non si pongono i problemi che oggi ci pone il linguaggio. Ad esempio, i plurali. Ora stiamo traducendo un poeta che lavora molto sulla dissoluzione del soggetto, e ogni volta che ci troviamo davanti a un plurale è un guaio, perché dobbiamo dare un genere a questo plurale o dobbiamo operare una modifica. E quindi questa cosa ci porta a chiederci come facciamo dei plurali che siano inclusivi e che non designino implicitamente una prospettiva di genere, ad esempio. O la risemantizzazione di alcune parole, l'inserimento di nuove forme linguistiche all'interno di un'altra forma linguistica, perché questo è un po' quello che dicevi tu prima, cioè i linguaggi sono sistemi in movimento, e soprattutto in Italia abbiamo un enorme problema con la tradizione, soprattutto letteraria, cioè sembra che l'Italia si sia assolutamente conclusa con il Rinascimento e con il Barocco, e non è così. Non c'è una percezione del contemporaneo in quanto contemporaneo, anche in accademia. Letteratura contemporanea viene considerata una letteratura degli anni 60, ma la nostra società è a questo punto tragico proprio perché non ha capito niente, non ha riflettuto su cosa sono stati gli anni 60, 70, 80, 90. Quindi io non vedo nulla di più politico che tradurre, sinceramente, e farlo in una collettività significa rinegoziare costantemente il proprio ego, quindi avere un'attività politica metodologicamente orientata alla distruzione del soggetto unico capitalista. Sì, mi è piaciuto assai. Grazie. Grazie. E a proposito delle scelte politiche e la dissoluzione anche di una certa percezione, torniamo un attimo sul tema dell'archivio. Mm-hmm. Forse sì, puoi parlare un po' sul modo, sulla prospettiva che vi ha portato a mettere sempre la traduzione in primis, perché come dicevo abbiamo parlato tanto nell'organizzazione di questo numero, mi ha aiutato tanto a riconcepire cosa deve essere uno stato default, cioè lo stato normale di una presentazione. Quindi sì, come percepite anche l'archivio mm-hmm. di questo materiale anche così vivo, mm-hmm. che si fa fatica a ridurre queste cose sulla pagina bianca? Certo. Sì, questa è stata forse la sfida più grande, soprattutto perché noi con la radio ci salviamo molto, nel senso che c'è un live e non abbiamo il pieno controllo di come le informazioni in termini di lettura, di musica, eccetera, vengono gestite nella mente di chi ascolta, mentre invece una pagina scritta automaticamente è molto più impositiva, semplicemente nell'atto di sfogliare dobbiamo, cioè, ci siamo chieste come diamo con queste premesse molto belle e come dire riflettute, fatte fin qui, come diamo una forma giusta a questi materiali che non sono solo nostri, sono di tante persone, anche di tante persone morte, perché ci sono tante citazioni, c'è tanta intertestualità, quindi come ridiamo questa libertà nel leggere. E quindi ci è venuta in mente l'idea della cassetta degli attrezzi, per l'appunto, del toolkit, e quindi del proporre sia appunto in forma di selezione, perché comunque Radio Poesia ha avuto 7 edizioni e per ogni edizione abbiamo tradotto tra le 4 le 5 poesie, quindi siamo sui 35 componimenti, cioè avremmo dovuto fare un mononumero su di noi, non sarebbe stato il caso. E quindi proporla in selezione, anche con l'idea magari di far avvicinare più persone al nostro archivio online, che è su Mixcloud, perché da poco abbiamo boicottato Spotify, visti gli sviluppi attuali. E abbiamo provato a selezionare innanzitutto questi componimenti provando a vedere nell'attitudine che ognuno ha mostrato nell'interfacciarsi al testo dell'altro una modalità di tradurre, che quindi potesse funzionare non solo come cassetta degli attrezzi da cui si pesca una poesia e la si ascolta con una traccia magari proveniente da un'altra puntata, ma che divenisse proprio una cassetta degli attrezzi metodologica, poiché non c'è un solo modo di tradurre. In realtà anche in una stessa raccolta, per quanto uno si può dare una ratio, a volte questa ratio è molto flebile. E così appunto si dà a chi legge la possibilità di costruirsi il proprio percorso di lettura e di ascolto, decidere quando fermarsi. Cioè in questo senso forse addirittura quasi più libero della trasmissione, che ha una durata nello spazio, nel tempo, mentre invece fuoriuscendo dalla dimensione del live e quindi riportando questa dimensione all'intimo di una persona che sfoglia una rivista, l'idea era proprio consentire quanta più libertà possibile nell'accoppiare materiali in maniera quasi un po' dada, forse. Domanda un po' strana. Se non eravate presenti una sera, secondo voi potrebbe funzionare che qualcuno ascoltasse una o due puntate di Radio Poesie per poi gestire un incontro da solo? O non da solo, però con altre persone, senza la vostra guida? Mm-hmm. Cioè, questa idea di interagire con... Sto pensando a, come dicevi tu, a un toolkit, una cassetta degli attrezzi. Se possa essere tradotta, passata da un mano all'altro. Non ho capito in che misura, però. Cioè, ho capito questa. L'idea era un po' quella, però mi sembra che tu mi vuoi mettere un po' in difficoltà, quindi dimmi meglio. Se funzionerebbe senza di voi. Altri poeti, altra radio, altro contesto. Ma sarebbe bellissimo, perché poi diremmo, ma facciamone una tutti insieme. Cioè, sì. Secondo me, non, come dire, è chiaro che in questa sede, secondo me, è anche importante sottolineare che c'è comunque una certa professionalità nel tradurre. Quindi non vorrei nemmeno che passasse l'idea che tutti possono fare tutto, perché anche questa è un po' una menzogna capitalista. Cioè c'è della tecnica, c'è dello studio, c'è del lavoro, ma questo non... Artigianalità. Sì, coltivata nel tempo, però questo poi non si riallaccia all'altra frottola capitalista, devi fare la gavetta. Però c'è un equilibrio che si deve tenere tra il cimentarsi con una pratica per sconfinare nella lingua, e questo è veramente una cosa che possono fare tutti, e dirsi traduttori, traduttrici, traduttor, è una cosa che, come dire... No, perché sembra anche un po' un manifesto quello che hai detto stasera. Quindi penso già a un movimento collettivo, senza essere troppo subito politico. Aspetta, passa la parola a Daniela. Aggiungo una cosa, perché appunto magari mi è venuto come suggestione il fatto che dietro comunque questo progetto c'è anche un po' la prima cosa che tu hai detto, no? Quando parlavi della fiducia, c'è un bellissimo testo di Jacques Rancière, Le Maître Ignorant, dove la fiducia è proprio il punto da cui parte, dove c'è questa storia un po' di questo insegnante che insegna una lingua che non sa, però dando fiducia all'ascoltatore. E questa è una cosa che tu hai detto all'inizio, e subito mi sono ritrovata e mi sono detta sì. E dentro anche il pensiero di Rancière ha avuto molto impatto anche la sua idea di spettatore emancipato, e quindi comunque la pratica di traduzione è uno strumento, una pratica che ha in sé un potere, o comunque c'è un desiderio dentro questa pratica di emancipazione in quel senso. E almeno per me è fondamentale proprio quando lui a un certo punto dice: questo mondo ha bisogno appunto di cantori e traduttori, e quindi perché sappiamo la centralità delle narrazioni e quindi la traduzione come strumento che ti porta a una narrazione, il farlo con un occhio appunto critico, che sta attento a non colonizzare, essere colonizzati, e tutta una serie di spettri che Antoine Berman ci insegna benissimo in un suo testo che è L'Auberge Loin, l'albergo della lontananza, dove parla dell'etica della traduzione. Quello appunto è un'idea che appunto, cioè, secondo me libera la possibilità, e poi è un progetto di traduzione anche condivisa in qualche modo, nel momento in cui appunto cioè anche voi siete diventati wandering translators nel momento in cui avete tradotto, quindi oppure i musicisti, no? Nel momento in cui collaborano componendo addirittura per il progetto, perché come dicevi tu, anche lì c'è l'idea che questo collettivo, questo gruppo ospita anche delle arti diverse, e un'altra linea in comune appunto è quest'idea che la poesia sia una forma d'arte e anche la traduzione, cosa che comunque è un atteggiamento poco coltivato nel tessuto culturale in cui ci troviamo, e di questo poi grazie al Goethe che ci ha lanciato questa sfida noi abbiamo colto e siamo arrivati qua. Però dentro c'è anche un po' quella gioia, non lo so, io sono della generazione in cui ti arrivava l'LP a casa e andavi dall'amico, l'amico veniva da te e diceva: ah, guarda, è arrivata questa cosa, senti questa traccia. E per me anche la poesia, quella gioia lì, ah, guarda, ho scoperto questo poeta, ascolta questa cosa, no? E quindi anche l'idea di ridare questo momento di entusiasmo, di gioia, di scoperta, è un po' un elemento, cioè, per questo anche la musica è importante il fatto di avere un evento live in cui poi dopo, cioè, ci vediamo con le persone, beviamo insieme, parliamo, perché in fondo poi c'è anche un momento di celebration che ci vuole. Voglio aggiungere solo una cosa, magari anche come ponte su quello che sta per succedere. Cioè, questa cosa che diceva Daniela rispetto alla musica, perché poi c'è un altro problema sulla fruizione della poesia, cioè quello che dice mia mamma: sì, ma io non lo capisco. Ma tu non devi capire niente, cioè devi ascoltare. E quindi la collaborazione con tutti i musicisti e le musiciste e i musicisti durante Radio Poesia serve proprio a creare dei momenti in cui quello che è stato appena ascoltato possa riverberare in qualche modo, e quindi svincolarsi da questa idea che una poesia è un'istruzione per l'uso, che se sbagli a prendere devi andare in ospedale perché hai preso male il farmaco. Non si tratta assolutamente di questo. Ma direi che questo è veramente il ponte alla presenza non soltanto della musica, che è in sé una collezione di frammenti che non vengono sempre capiti, ma anche semplicemente ascoltati, con la presenza eccezionale dell'artista Andrea Bolognino. E siamo molto grati, felici di avere Andrea con noi stasera, che farà un live visual set accompagnato dal mixtape di Radio Poesia by Wandering Translators per questo numero di 20 seconds. E non posso partire senza dire che, se vi interessa sapere di più del lavoro di Andrea Bolognino, potete anche guardare in 20 Seconds Magazine Issue 7, The Medium, perché secondo noi il suo lavoro, le sue opere sono ottimi esempi di un artista che cerca di trascendere i confini di un medium, nonostante il fatto che sta disegnando, dipingendo e sculturando tante altre cose che vedrete adesso. Adesso. E poi dopo continueremo con una lettura di poesia. Yes. Rosa parlerà delle traduzioni. Delle traduzioni. Grazie. Grazie. Oh. Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Ja, Beatrice hat ein Telefongespräch, aber sie kommt gleich wieder. Beatrice ist aber schon mal telefoniert, aber auch ein Publikum. È solo una copia sbiadita dell'originale. Ma è solo una sclave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Eine Dekonstruktion vielleicht. Dekonstruktion, bitte. Sì, sì. Wie sagt man? This is dangerous. Open up your head, feel the show shot. This is dangerous. I walk through my fears and watch your head rock. Normalerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Gefühl, ich habe alles nicht verstanden an dem Gedicht. Was? Verarschen. Un po', non so se sia presente Perec, le choses, le cose di Perec. È un po' quello il meccanismo. Ho usato una parola in dialetto bavarese per descrivere la canzone della ragazza disagiata, la poesia della ragazza disagiata. E la vero che c'è rabbia, c'è anche l'ironia, e in che modo. Schluckst du die blaue Kapsel? Ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchen. Comunque. C'è molta pietà. Denke, alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Yeah. Thank you. Thank you. spieghiamo magari anche al volo per chi è nel radio cosa abbiamo un po' visto forse. Cioè, Andrea Bolognino lavora con un set principalmente analogico in cui attraversa le vite degli oggetti intersecandole poi con delle immagini digitali, quindi mentre ascoltavamo eravamo davvero proiettati, cioè io me ne sono andata proprio, ciao. Mi sentivo come sono entrato nel mio cervello. Com'è andata? Sono sopravvissuto. Grazie davvero ad Andrea. Grazie, per Andrea, questa performance. E grazie anche ai lavori che abbiamo ascoltato. Che sono ti volevo lavori chiedere, di... cosa stavamo ascoltando? Abbiamo ascoltato Sara Persico, poi un mix di varie call preparatorie di radiopoesia con Fabrizio fatto da Daniela. Poi abbiamo ascoltato una traccia di Nico Sawa composta per Radiopoesia 3. Abbiamo ascoltato Love di Sec, che è anche qui presente, quindi grazie per averci donato queste tracce. Certo, vabbè, ma noi siamo venuti qui solo per ascoltare questa traccia. Poi c'era tutta una messa in scena. Si trova nel numero? Si trova nel numero, esatto. Poi abbiamo ascoltato Untitled Forever di X, che suonerà stasera al Perditempo. Quindi se non avete sudato abbastanza, venite con noi dopo il Perditempo, perché la festa continua. Continua sempre. Poetry is so much fun. E poi Mario Gabbola con Han Tremolo, però tagliato, perché anche quello è un pezzo molto lungo e dovevo tagliare a un certo punto, perché il mixtape continua. Il mixtape è infinita, in realtà. Sì, esatto. È il mixtape della vita. Ti lascio la parola per introdurre le traduzioni, mm-hmm, e le persone che le leggeranno. Certo. Dunque, facciamolo al contrario, cioè non farei sto storicamente, quindi comincerei da Fabrizio Maria Spinelli, che legge l'ultima parte di un lavoro molto lungo di Nora Zapf, bellissimo, ispirato a un lavoro di Sor Juana, ha un cognome molto lungo, comunque una mistica messicana, e la raccolta si chiama Nächste Erste Traum, primo sogno seguente, cioè di Ode nella raccolta il lavoro si chiama Nächste Erste Traum, primo sogno seguente. E Fabrizio ha fatto una traduzione espansa sostanzialmente, cioè visto che noi abbiamo dato un apparato penso di 170-150 note, lui le ha integrato, quindi praticamente tenendo conto del tracciato originario perché la poesia è riconoscibile, ma riscrivendola, integrando le note. Sì, grazie, preferisco, perché tenterò di essere rapido perché l'ossigeno sta terminando a nostra disposizione comunque. Però io il ventaglio. Ah, grazie. Sì, questa è la parte finale di questo poema che si chiama Flossar, che pinnario. E io in realtà avevo preparato delle altre cose, ma non ho conto di quello che vabbè, vai. Ti preoccupare. No, dico delle cose di questo testo, ho fatto un montaggio io, ma hai ragione. Comunque. Ah, se potessi perdere me stessa in cellule come miniere, i nostri vestiti rigidi dallo sporco li appenderemo negli spogliatoi in alto del tutto. Dormire fa aumentare le tasse. Montare i membri sui nembi non mi è mai riuscito. Tu non hai il nome di chissà quale collina, a me piuttosto suoni di galassia. Chi mostra il culo del cervello è nudo, e chi è senza peccato pietra la prima voce. Un percorso attrezzato implica onirico labirinto. È stata una catastrofe, e tu da lì dentro dici allo stesso tempo che è stato totale il nostro sogno, un cosmorama totale di grandi mani. Grazie. Vabbè, dai, andiamo. Ah, sì, questa è la parte più bella. Scusate, diciamo vabbè. Al microfono, tanto per i nostri amici. Sì, questa è la seconda parte del pinnario. Poi lei pronunciò la frase antica: noi siamo come il sognatore che sogna e poi vive all'interno del sogno. Ma chi è il sognatore? La mia nel ventre sanguina testa. Adesso tu lo tieni con cura, tra le mani. Poi me l'hai dovuto strappare, sempre a picco, calante, poi nell'allestimento spoglio del cranio, dove comincia la scrittura. Faccio un cenno di ringraziamento a tutti quelli che leggo e che ho letto, le tinte da cui ho intinto. Sempre a picco, calante, ordinanza di imbrunire, copri crepuscolo. Non riuscire mai a dormire, è una poetica della compassione, del codormire, concubire, fornicare, o una poetica dell'addormentarsi, finalmente. Il sogno fa cadere la membrana fra te e me. Solo al mattino avvertire la forza di gravità come un'ascia, contessa, perdono, perdono, perdono. Io che pensavo che nozze significassero notti, le notti di Figaro. Qualcosa si innalza da dentro ancora una volta, allunga la mano, accarezza il cuore, come un ghost touch che aziona lo schermo da solo, un movimento ontologico, la radice incorporea alla base di una lingua spettrale. Quando ero incinta anche i sogni lo erano. Erano speciali, i colori nitidi e crudi sulla screpolatura, una scultura accessibile, un dipinto che potevi toccare, una forma che anche se ha il sesso coperto è nuda. La nascita è un dattilo, un sogno piccolo in un grande nguengue, come i semi più fini del papavero, confronta Scile, confronta Moderson, soprattutto i loro stomaci. Sui metri quadri giurati dall'agenzia regna di nuovo luce, la mia ora blu. Sono caduta dal sogno. Sì. E tu? Sei sveglio? Grazie. Adesso, sempre con l'idea di andare un po' a ritroso, ascolterei la versione che Ferdinando Tricarico ha scritto di questa lirica di Daniela Sehl, da questa raccolta Auszug aus Eden, cacciata dall'Eden. E questo, per esempio, è un po' un simbolo di quello che ti dicevo prima, che la traduzione a volte richiede un atto di violenza, e in questo una violenza gentile comunque, e in questo caso è stato fatto nei confronti della formattazione del verso, poiché Ferdinando ha modificato la segmentazione dei singoli versi, ma non per questo non possiamo parlare di una traduzione. Ecco. Sì, appunto, che a un certo punto ho detto: ma qui c'è una mia poesia stasera, poi mi hai ricordato che le abbiamo tradotte. E in realtà è il principio che dicevi prima, diciamo, che la trasmissione che avviene nella traduzione, poi dopo è una trasmissione che crea una relazione nuova. È un testo che è sempre nuovo. Voi avete tradotto poi in inglese, però l'avete preso dal tedesco. Sarebbe stato carino se prendevate la traduzione dalla nostra traduzione italiana, e sono... che diventava non ancora ho, una... Non ho nessun dubbio che c'è una persona accanto a te che forse a lei avrebbe piaciuto. Sarebbe stata un'operazione, abbiamo tradotto le traduzioni, che diventava molto, molto interessante. Io ricordo che Daniela Sehl, quando è venuta alla trasmissione, ha detto: io ho fatto leggere questa traduzione, caro Tricarico, ho fatto leggere questa traduzione a dei miei amici italiani, che hanno detto che è molto interessante, che va bene. Quindi, diciamo, godo dei favori della tradotta. Politica liquida. Politica liquida di falsa intransigenza. Una pioggerella sui secolari alberi del potere che a vicenda si tengono sfuggendo alla luce che cambia. La rivoluzione è un volo che muore nella sua durata, senza resurrezione. Nessuna buona novella. quanta bellezza nella tua inutile lotta sconosciuta, da un coltello, dalla pelle, da un'eternità, sotto il corno di un pettinaio, non sei tu a mancarmi, sono io a perderti, mentre tutto comunque accade. E mi fa proprio piacere concludere con Carmen Gallo, perché in realtà non concludiamo niente, nel senso concludiamo solo questo incontro perché stiamo sudando l'anima, ma Carmen ha partecipato alla primissima edizione di Radio Poesia con Dagmara Kraus e ha, per l'occasione, ha rilavorato la sua traduzione. Quindi abbiamo due versioni che hanno quanti anni di differenza? 7, perché sono 7 le edizioni di Radio Poesia, ci poteva arrivare logicamente. E quindi niente, speriamo che quando faremo The Archive numero 2 su 20 Seconds avremo un'altra versione, un'altra versione, un'altra versione. Grazie, grazie a tutti che resistete e grazie a Radio Poesia e a 20 Seconds. Io volevo raccontare questa cosa, che in realtà questa, per rendere tutto più complicato, questa è una traduzione dal tedesco, lingua che io non parlo minimamente, e in realtà noi abbiamo avuto 3-4 incontri a casa mia, sufficientemente irrorati da vino, in cui avevamo il testo tedesco, la loro traduzione interlineare, e io che chiedevo, ma questo si può fare così? Questo si può fare in quest'altro modo? Perché io non lo so, però voi che conoscete la lingua me lo potete dire. Quindi abbiamo esplorato un'infinità di possibilità che nel 2018 hanno preso una forma e nel 2025 un'altra. Quindi Ballata per Valérie di Dagmara Kraus. Ho portato a termine la morte, ho seppellito l'uccello del lamento nella pelle di una talpa. Il mio camice, non secondario dal punto di vista medico, quest'abito che ora è parte del carattere ma non ha in sé la briglia del torrente. Il mio camice, non secondario dal punto di vista medico, l'ho invocato contro le inondazioni, contro i rumori rasati dai pattini sul ghiaccio. Il corteo portava ancora la tuta blu da lavoro, guardava la testa intrecciata di stridoli, le radici spuntavano e io le rubavo. Il mio camice, non secondario dal punto di vista medico, si tinse di papavero, mi riscaldò per poco e io non ho perduto la mia forma e il resto. Ho portato a termine la morte, mi sono seppellita nell'uccello del lamento, nella pelle di una talpa e riconciliata mi domando come posso non confidare nelle comete. Gli animali mi maledicono. Grazie di nuovo a Fabrizio, Ferdinando e Carmen di aver letto queste bellissime traduzioni. Grazie a voi che, sì, come abbiamo detto, siate resistiti. Mamma mia. Ma vogliamo concludere con qualche domanda, se c'è, se no andiamo direttamente a respirare. Sì, prima di chiuderci al perditempo per risudare. Se c'è una domanda essenziale. La faremo off the record, secondo off me, record. C'è bisogno di aria. Quindi per confermare, adesso, prima cosa, prima di tutto, grazie ad Ivano Bove e Dispaccio. Grazie, di averci Ivano. Ospitato. No, per questo. C'è stato un problema con l'aria condizionata, come vedete, che doveva esserci e non c'è stata, però grazie a voi. Grazie di aver creato questo luogo così importante anche per me, che non vivo qua, però è un piacere. Più o meno, dai. Più o meno. Grazie a Radio Live, Giovanni e Giovanni. GMG. Di nuovo, di nuovo grazie ad Andrea Bolognino per questa performance. Grazie maestro. Grazie a Daniele e Rosa per il vostro contributo fantastico in questo numero e a te per questa conversazione. Grazie a te per lo stoicismo del portare avanti una rivista indipendente. È difficile. Stoico non lo so. E adesso andiamo da Perditempo più o meno per ascoltare la musica di X e di Key Clef, che è Livia Borzetti. E Guido Marziale. E Guido Marziale, quindi dalle 22 siamo da Perditempo, siete tutti invitati. Andiamo avanti così. Sì. Grazie di nuovo. Non ci consumiamo. Grazie. E ovviamente potete comprare queste riviste da Ivano qua al dispaccio.